Il terzo anello, ad alta voce. Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Nel piano inferiore, dove erano installati due cannoni, uno degli artiglieri si era agitato moltissimo alla vista del cavallo. Si chiamava Giuseppe Lazzari, un giovanotto da poco entrato in servizio. Diceva che quel cavallo era il suo. Ah, lo riconosceva perfettamente, non poteva sbagliarsi. Dovevano averlo lasciato fuggire, mentre le bestie erano uscite dalla fortezza per la beverata. «È Fiocco! Il mio cavallo!» gridava, come se fosse veramente di sua proprietà, e glielo avessero rubato. Tronc, sceso da basso, fece subito tacere le grida e dimostrò seccamente a Lazzari come fosse impossibile che il suo cavallo fosse fuggito. Per passare nella valle del nord avrebbe dovuto attraversare le mura della fortezza o scavalcare le montagne. Il Lazzari rispose che c'era un passaggio, aveva sentito dire, un comodo passaggio attraverso le rupi, un'antica strada abbandonata che nessuno più ricordava. C'era, difatti, alla fortezza, fra le tante, questa curiosa leggenda. Ma doveva essere una fandonia. Di quel segreto passaggio non si era mai trovata traccia. A destra e a sinistra della fortezza, per chilometri e chilometri, sorgevano selvagge montagne che non erano mai state valicate. Ma il soldato non si persuase e fremeva all'idea di doversene stare chiuso nella ridotta, senza poter riprendersi il cavallo. Mezz'ora di cammino sarebbe bastata fra andare e tornare. Intanto le ore si consumavano, il sole continuava il suo viaggio verso l'occidente, le sentinelle si davano il cambio al tempo giusto, il deserto risplendeva più solitario che mai, il cavallino se ne stava al posto di prima, per lo più immobile, come se dormisse o andava in giro cercando qualche filo d'erba. Gli sguardi di Drogo cercavano nella lontananza, ma non avvistavano nulla di nuovo, sempre le stesse lastronate rocciose, i cespugli, le nebbie dell'estremo settentrione che mutavano lentamente colore man mano che la sera si avvicinava. Venne la guardia nuova a dare il cambio. Drogo e i suoi soldati lasciarono la ridotta, si avviarono di traverso ai ghiaioni per ritornare alla fortezza tra le ombre violette della sera. Giunti che furono alle mura, Drogo disse la parola d'ordine per sé e per i suoi compagni. La porta venne aperta, la guardia smontante si schierò in una specie di cortiletto e Tronc cominciò a fare l'appello. Intanto Drogo si allontanò per avvertire il comando del misterioso cavallo. Come era prescritto, Drogo si presentò al capitano di ispezione, poi insieme andarono a cercare il colonnello. Di solito, per le novità, bastava rivolgersi all'aiutante maggiore in prima, ma questa volta poteva essere una cosa grave e non bisognava perdere tempo. Intanto la voce era corsa fulmineamente per tutta la fortezza. Qualcuno negli estremi corpi di guardia già parlottava di interi squadroni tartari accampati ai piedi delle rocce. Il colonnello, quando seppe, disse soltanto: «Bisognerebbe cercare di prenderlo, questo cavallo. Se alla sella, si potrà forse capire da dove viene». Ma era ormai inutile, perché il soldato Giuseppe Lazzari, mentre la guardia smontante ritornava verso la fortezza, era riuscito a nascondersi dietro un pietrone senza che nessuno se ne accorgesse. Era poi sceso da solo per i ghiaioni, aveva raggiunto il cavallino ed ora lo riconduceva alla fortezza. Constatò con stupore che non era il suo, ma non c'era ormai altro da fare. Soltanto all'atto di entrare nella fortezza qualche compagno si era accorto che lui era scomparso. Se Tronc fosse venuto a saperlo, il Lazzari sarebbe rimasto in prigione almeno un paio di mesi. Bisognava salvarlo. Perciò quando il sergente maggiore fece l'appello e venne il nome del Lazzari, uno rispose per lui: «Presente!» Qualche minuto più tardi, quando i soldati avevano già rotto le righe, ci si ricordò che il Lazzari non sapeva la parola d'ordine. Non si trattava più della prigione, ma della vita. Guai se si fosse presentato alle mura, gli avrebbero sparato contro. Due, tre compagni si misero allora alla ricerca di Tronc perché trovasse un riparo. Troppo tardi. Tenendo per le briglie il cavallo nero, Lazzari era già vicino alle mura e sul cammino di ronda c'era Tronc, richiamato lassù da un vago presentimento. Subito dopo aver fatto l'appello, un'inquietudine aveva colto il sergente maggiore. Lui non riusciva a stabilirne la causa, ma intuiva che qualche cosa non andava bene. Riesaminando i fatti della giornata, era arrivato fino al ritorno nella fortezza senza trovare nulla di sospetto. Poi aveva come incontrato un intoppo. E sì, all'appello doveva esserci stata una irregolarità e al momento, come spesso avviene in questi casi, egli non l'aveva avvertita. Una sentinella faceva la guardia proprio sopra la porta d'ingresso e la penombra vide sulle ghiaie due figure nere che venivano avanti. Saranno state a 200 metri. Non ci badò. Pensò di avere un'allucinazione. Molte volte nei posti deserti, a stare lungo tempo in attesa, si finisce per scorgere anche in pieno giorno sagome umane sbusciare fra i cespugli e le rocce e si ha l'impressione che qualcuno ci stia spiando. Poi si va a vedere e non c'è nessuno. La sentinella, per distrarsi, si guardò attorno, fece un cenno di saluto a un compagno, sentinella una 30 di metri più a destra, si aggiustò il pesante berretto che gli stringeva la fronte, poi volse gli occhi a sinistra e vide il sergente maggiore Tronk, immobile, che lo fissava severamente. La sentinella si riscosse, guardò ancora dinanzi a sé, vide che le due ombre non erano un sogno. Si trovavano ormai vicine, saranno stati appena 70 metri. Esattamente un soldato e un cavallo. Allora imbracciò il fucile, preparò il cane allo sparo, si irrigidì nel gesto ripetuto centinaia di volte all'istruzione e poi gridò: «Chi va là? Chi va là?» Il Lazzari era soldato da poco tempo, non pensava neppure lontanamente che senza la parola d'ordine non sarebbe potuto rientrare. Tutt'al più temeva una punizione per essersi allontanato senza permesso. Ma chissà, forse il colonnello l'avrebbe perdonato per via del cavallo recuperato. Era una bestia bellissima, un cavallo da generale. Non mancavano che una 40 di metri. I ferri del quadrupede risuonavano sulle pietre. Era quasi notte completa. Si udì un lontano suono di tromba. «Chi va là? Chi va là?» ripeté la sentinella. Ancora una volta, e poi avrebbe dovuto sparare. Un improvviso disagio aveva colto in Lazzari al primo richiamo della sentinella. Egli pareva così strano, ora che si trovava personalmente di mezzo, sentirsi interpellare in quel modo da un compagno. Ma si rasserenò al secondo chi va là, perché riconobbe la voce di un amico, proprio della stessa compagnia, che lo chiamavano confidenzialmente Moretto. «Sono io, Lazzari!» gridò. «Manda il capoposta ad aprirmi! Ho preso il cavallo! E non farti accorgere, se no mi ficcano dentro!» La sentinella non si mosse. Con il fucile imbracciato se ne stava ferma, cercando di ritardare al possibile il terzo chi va là. Forse il Lazzari si sarebbe accorto da solo del pericolo, sarebbe tornato indietro, avrebbe potuto magari aggregarsi il giorno dopo alla guardia della ridotta nuova. Ma a pochi metri c'era Tronk, che lo fissava severamente. Tronk non diceva parola. Ora egli guardava la sentinella, ora il Lazzari, per colpa del quale probabilmente sarebbe stato punito. Che cosa volevano dire i suoi sguardi? Il soldato e il cavallo non distavano più di 30 metri. Aspettare ancora sarebbe stato imprudente. Quanto più vicino si faceva il Lazzari, tanto più facilmente sarebbe stato colpito. «Chi va là? Chi va là?» gridò la terza volta la sentinella, e nella voce c'era sottinteso come un avvertimento privato e antiregolamentare. Voleva dire: «Torna indietro fino a che sei in tempo. Vuoi farti ammazzare?» E finalmente il Lazzari capì. Si ricordò in un lampo le dure leggi della fortezza. Si sentì perduto, ma invece di fuggire, chissà perché, lasciò le briglie del cavallo e si fece avanti da solo, invocando con voce acuta. «Sono io, Lazzari! Non mi vedi? Moretto! Oh, Moretto! Sono io! Ma che cosa fai con il fucile? Ma sei matto? Moretto!» Ma la sentinella non era più Moretto, era semplicemente un soldato con la faccia dura che adesso alzava lentamente il fucile, mirando contro l'amico. Aveva appoggiato lo schioppo alla spalla e con la coda dell'occhio sbirciò il sergente maggiore, invocando silenziosamente un cenno di lasciar stare. Invece Tronk stava sempre immobile e lo fissava severamente. Il Lazzari, senza voltarsi, retrocedette di qualche passo, incespicando sulle pietre. «Sono io, Lazzari!» gridava. «Non vedi che sono io? Non sparare, Moretto!» Ma la sentinella non era più il Moretto, con cui tutti i camerati scherzavano liberamente. Era soltanto una sentinella della fortezza, in uniforme di panno azzurro scuro, con la bandoliera di mascarizzo, assolutamente identica a tutte le altre nella notte, una sentinella qualsiasi che aveva ammirato, e ora premeva il grilletto. Sentiva nelle orecchie un rombo, e gli parve di udire la voce rauca di Tronk. «Mira, giusto?» Benché Tronk non avesse fiatato. Il fucile fece un piccolo lampo, una minuscola nuvoletta di fumo. Anche lo sparo, al primo momento, non sembrò granché, ma poi fu moltiplicato dagli echi. Ripercosso di muraglia in muraglia, restò a lungo nell'aria, morendo in un lontano brontolio, come di tuono. Ora che il dovere era fatto, la sentinella mise il fucile a terra, si sporse dal parapetto, guardò in giù, sperando di non aver colpito. E nel buio gli parve, infatti, che il Lazzari non fosse caduto. No, il Lazzari era ancora in piedi, e il cavallo gli si era fatto vicino. Poi, nel silenzio lasciato dallo sparo, si udì la sua voce. «Oh, Moretto, mi hai ammazzato!» Questo il Lazzari disse, e si afflosciò lentamente in avanti. Tronco, col volto impenetrabile, ancora non si era mosso, mentre un rimescolio guerriero si propagava per i meandri della fortezza. Così cominciò quella notte memorabile, attraversata dai venti, fra dondolii di lanterne, insolite trombe, passi negli androni, nuvole che scendevano a precipizio dal nord, si impigliavano le cime rocciose lasciandoci attaccati i brandelli, ma non avevano tempo di fermarsi. Qualcosa di molto importante le chiamava. Era bastato uno sparo, un modesto colpo di fucile, e la fortezza si era svegliata. Per anni c'era stato il silenzio, e loro sempre tesi al nord per udire la voce della guerra sopraggiungente. Troppo lungo silenzio. Adesso un fucile aveva sparato con la sua carica di polvere prescritta e la pallottola di piombo di 32 grammi, e gli uomini si erano guardati a vicenda come se fosse stato quello il segnale. Certo, anche questa sera nessuno, tranne qualche soldato, pronuncia il nome che è nel cuore di tutti. Gli ufficiali preferiscono tacerlo, perché proprio quella è la speranza. Per i tartari hanno alzato le mura della fortezza, consumano lassù larghe porzioni di vita, e per i tartari le sentinelle camminano giorno e notte come automi, e chi questa speranza alimenta ogni mattino di nuova fede, chi la conserva nascosta nel fondo, chi non sa neppure di possederla, credendo di averla perduta. Ma nessuno ha il coraggio di parlarne, sembrerebbe di malaugurio. Soprattutto parrebbe di confessare i propri pensieri più cari, e i soldati di questo hanno vergogna. Per ora c'è soltanto un soldato morto e un cavallo di ignota provenienza. Nel corpo di guardia, alla porta che dà sul nord, dove è successa la disgrazia, c'è un gran fermento e, benché non sia regolamentare, si trova anche Tronk, il quale non ha requie pensando alla punizione che lo attende. La responsabilità cade su lui. Lui doveva impedire a Lazzari di fuggire. Lui doveva accorgersi subito al ritorno che il soldato non aveva risposto all'appello. Ecco che adesso compare anche il maggiore Matti, ansioso di far sentire la propria autorità e competenza. Ha una strana faccia che non si capisce. Può perfino dare l'impressione che sorrida. Evidentemente è informato alla perfezione di tutto e al tenente Mentana, di servizio in quella ridotta, dà ordine di far ritirare il cadavere del soldato. Mentana è un ufficiale scialbo, il più anziano tenente della fortezza. Se non avesse un anello con un grosso diamante e non giocasse bene a scacchi, nessuno si accorgerebbe della sua esistenza. Ah, grossissima è la pietra preziosa al suo anulare, e pochi sono quelli che riescono a batterlo sulla scacchiera. Ma di fronte al maggiore Matti, egli trema leggermente e perde la testa in una cosa così semplice come quella di mandare una corvée per un morto. Fortuna, il maggiore Matti ha scorto in piedi in un angolo il sergente maggiore Tronk e lo chiama. Tronk, visto che lei qui non ha niente da fare, prenda il comando della spedizione. Dice così, con la massima naturalezza, come se Tronk fosse un sottufficiale qualsiasi, senza alcun rapporto personale con l'incidente. Perché Matti non è capace di fare un rimprovero diretto, finisce per diventare bianco di rabbia e non trova le parole. Preferisce la ben più dura arma delle inchieste, con flemmatici interrogatori, documentazioni scritte che riescono a ingrandire mostruosamente le più lievi mancanze e portano quasi sempre a punizioni di impegno. Tronk non batte ciglio, risponde «Signor sì», e si affretta nel cortiletto, subito dietro il portone. Un piccolo gruppo, alla luce delle lanterne, esce poco dopo dalla fortezza, Tronk in testa, poi quattro soldati con una barella, altri quattro soldati armati per precauzione e, per ultimo, lo stesso maggiore Matti, avvolto in una stinta mantella che trascina la sciabola sui sassi. Essi trovano il Lazzari così come è morto, la faccia a terra e le braccia protese in avanti. Il fucile tenuto a tracolla si è impigliato nella caduta fra due sassi e sta diritto in su, col calcio in alto. Cosa strana a vedersi. Il soldato, cadendo, si è ferito una mano e prima che il corpo si raffreddasse, un po' di sangue ha fatto in tempo a colare, formando macchia sopra una pietra bianca. Il cavallo misterioso è scomparso. Tronk si china sul morto e fa per afferrarlo alle spalle, ma si ritira di scatto indietro, come se si fosse accorto di andare contro le regole. «Tiratelo su!» ordina ai soldati con voce bassa e cattiva. «Ma prima, levategli il fucile!» Un soldato si abbassa per slacciare la cinghia e depone sui sassi la lanterna, proprio vicino al morto. Lazzari non ha fatto in tempo a chiudere completamente le palpebre, e nello spiraglio degli occhi, sul bianco, la fiamma fa un lieve riflesso. «Tronk!» chiama allora il maggiore Matti, rimasto completamente nell'ombra. «Comandi, signor maggiore», risponde Tronk, mettendosi sull'attenti. Anche i soldati si fermano. «Dov'è successo? Dov'è scappato?» domanda il maggiore, strascinando le parole come se parlasse per annoiata curiosità. «È stato alla fonte? Dove ci sono quei pietroni?» «Signor sì, ai pietroni», risponde Tronk, e non aggiunge parole. «E nessuno l'ha visto quando è scappato?» «Nessuno, signor no», fa Tronk. «Alla fonte, eh? E c'era buio?» «Signor sì, abbastanza buio». Tronk aspetta qualche istante sull'attenti. Poi, siccome il Matti tace, fa segno ai soldati di continuare. Uno cerca di slacciare la cinghia del fucile, ma il fermaglio è duro e si stenta. Tirando, il soldato sente il peso del corpo ucciso. Un peso spropositato, come di piombo. Thank you. Massimo Popolizio ha letto Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it